Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Abbiamo scelto la colonna sonora di Mission per ricordare Ennio Morricone in apertura di questa puntata della Rosa Purpurea, il maestro assoluto delle colonne sonore, forse il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi, ci ha lasciato qualche giorno fa, aveva 91 anni, una lunghissima carriera che ha portato avanti fino alla fine, ha firmato le colonne sonore dei più grandi momenti probabilmente della storia del cinema, di alcuni dei più grandi momenti della storia del cinema, dai grandi western di Sergio Leone appunto a un film come Mission, con concerti dal vivo straordinari, con orchestre enormi che hanno come dire, lasciato il segno in più generazioni di quello che voleva dire accompagnare con la musica un film. Le sue melodie sono diventate celebri, anche quelle della musica dal film, non solo le canzoni che ha scritto all'inizio della sua carriera. Nel 2007 l'Oscar onorario, nel 2016 la statuetta per Hateful Eight di Quentin Tarantino. Noi arriviamo il sabato, arriviamo qualche giorno dopo questa scomparsa, ma non potevamo dimenticare questo grande maestro e non lo vogliamo fare. Siamo andati a spulciare un po' nel nostro archivio storico della Rosa Purpurea, risalendo al 2007, quando mi era capitato di intervistarlo per un libro bellissimo che aveva pubblicato per Elekta, con anche un CD con le sue migliori colonne sonore. E gli avevo chiesto proprio: maestro, ma cos'è per lei, cosa c'è per lei oltre la musica? E sentiamo qual era la sua risposta su questo concetto di oltre. Di oltre è la musica non cinematografica, quindi la musica che io chiamo assoluta, quella che altri chiamano classica, quelli che altri chiamano contemporanea. Quindi io lo dico assoluta nel senso che non è condizionata da alcun'altra arte, come nel caso del cinema, il cinema che condiziona la musica anche con dei frutti di buon risultato, insomma. Forse, anzi sicuramente lei è conosciuto più per la sua musica da film che per l'altro, ecco, cosa l'attira di più oggi dopo una carriera così, così imponente? Ecco, cosa l'incuriosisce di più quando si mette davanti al pentagramma e deve scrivere qualcosa? Guardi, intanto la voglia di scrivere, intanto il piacere, la gioia di scrivere, il piacere e la gioia di ascoltare quello che uno ha scritto, la passione e l'amore per questa professione. Capisce, tutto questo, la scoperta e la riscoperta di me stesso attraverso i suoni, la riscoperta degli insegnamenti e delle tecniche che il mio maestro mi ha lasciato, tutto questo porta a avere una passione che non finisce mai e quindi la fatica non si sente. Ecco maestro, lei in giro da anni ormai con concerti sinfonici, possiamo dire che finalmente i templi della grande musica hanno aperto le porte ai compositori della musica da cinema del Novecento, che sono forse i compositori in assoluto più interessanti e più innovativi del secolo che è trascorso? Io sì, posso dire che è stato aperto, si è rotto un argine, un ghetto, e quindi adesso c'è più spazio. Devo dire che io stesso, poco più di una settimana fa, ho diretto 4 concerti all'Accademia di Santa Cecilia, alla stagione concertistica sinfonica, e quindi c'è questa apertura, anche nella musica da camera c'è, quindi non c'è da lamentarsi, siamo in una stagione abbastanza favorevole. E del resto i compositori italiani, maestro, non so se lei è d'accordo, del Novecento, del dopoguerra, quelli che hanno lavorato però spesso per il cinema, sono compositori davvero a tutto tondo e si possono definire un po' gli eredi della grande tradizione della grande musica italiana, fino a Puccini per intenderci, no? Cioè... Non tutti. Ci sono dei dilettanti che fanno musica del cinema, che non sanno la musica, e anche siccome non sanno la musica se la fanno pure scrivere. Quindi la musica del cinema è calcolata male, è calcolata un po' di serie inferiore, proprio perché ci sono questi inquinamenti. Grazie a Ennio Morricone, ospite della Rosa Purpurea, a risentirci. Grazie, arrivederci. speranza e rigore e severità erano una delle caratteristiche, due delle caratteristiche di Ennio Morricone. Due anni dopo un nuovo incontro a Venezia per la presentazione di Baria di Giuseppe Tornatore, e qui ascoltiamo questo frammento. Ennio Morricone si commuove, qualcosa nella visione del film lo ha riportato alle sue origini e non riesce a trattenere una lacrima. Tutto il film è troppo complesso per parlarne in poche parole, veramente ha delle varie corde dentro di sé. Io ho lavorato verso tutte le strade cercando di fare il meglio possibile. Io ho visto il film la primissima volta quando era stato completato il montaggio provvisorio e mi ha fatto molta, molta impressione la corsa del ragazzino che va a prendere le sigarette. E il finale dove si ripete questa corsa col padre e figlio. Lì ho pianto. Porco Gesù. Ennio Morricone, Venezia 2009. Addio al più grande compositore di colonne sonore di tutti i tempi. Linea adesso alla viabilità. Fra poco torniamo insieme, andiamo all'attualità cinematografica e ascolteremo subito Charlize Theron, protagonista di The Old Guard. Adempimenti normativi, tracciabilità di cantina, controllo dei costi, vendite. La sola idea di fare tutto senza errori vi ubriaca. Voi concentratevi a produrre ottimo vino. A rendervi l'impresa più semplice c'è Enologia, la soluzione software di sistemi creata per togliervi ogni pensiero. Enologia di sistemi, tutto quello che vi serve senza retrogusti. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. La rosa purpurea. E tu chi sei? Puoi chiamarmi Andy. Comando un gruppo di soldati. Combattenti come te. Con delle doti estremamente rare. Che cosa vuoi dire? Diciamo che siamo molto difficili da uccidere. Ho preso quella nuova. Ha del potenziale. Le atmosfere di The Old Guard, il film con cui apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea, disponibile su Netflix, quindi in abbonamento, con un cast capeggiato da Charlize Theron, quindi da una firma stella di primo piano dell'universo hollywoodiano, ma anche completato dal nostro Luca Marinelli, e questo è sicuramente una particolarità. Insomma, i nostri attori, anche quelli più bravi, a volte fanno un po' fatica a inserirsi nell'universo, nel microcosmo del cinema mainstream americano. Bravo Luca Marinelli, che comunque è stato chiamato a questo film diretto da Gina Prince-Bythewood. La storia di Old Guard è quella di un gruppo, Andy, Booker, Joe e Nicky, una squadra di quattro mercenari che operano però solo a fine di bene e hanno una particolarità: sono immortali. Le loro ferite si rigenerano come quelle dei Wolverine o di Deadpool, sono praticamente dei veri e propri supereroi. Ignorano il perché della propria immortalità e chiaramente cercano in questo senso di dare un segno positivo alla loro esistenza pluricentenaria, anche se in qualche modo, in un modo che loro non conoscono, potrebbero essere feriti in maniera mortale. Questa è un'immortalità a tempo, diciamo così, ma è un tempo indefinito, lunghissimo, che potrebbe anche non arrivare mai, ma che da un momento all'altro potrebbe anche palesarsi. Forse questo è un elemento di sceneggiatura inserito per dare comunque una possibilità di pathos in più alla storia. Un giorno un ex agente della CIA, immancabile chiaramente, gli affida l'incarico di salvare alcuni bambini rapiti, e sarà una delle loro missioni più difficili, anche perché stanno cercando di sfuggire alla immancabile Big Pharma, che vuole capire il perché della loro immortalità e trarne grande profitto. Tutto questo in un clima di sparatori agguati, molto vicino ai film che si svolgono, che so, in Medio Oriente, in Pakistan, eccetera, cioè dove l'azione è in luoghi angusti e dove questi mercenari devono cercare di salvare soprattutto la propria pelle a ogni angolo. Salutiamo Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris! Buon Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovato. Allora, vogliamo partire da questo film perché chiaramente la presenza di Charlize Theron e anche di Luca Marinelli è una presenza importante, anche se a mio modo di vedere il film non riesce a portare a casa la sufficienza. Cioè c'è una come dire, grande attenzione all'azione, ci sono gli ingredienti di un cinecomics sostanzialmente, di una sorta di film di supereroi, però sembra mancare qualcosa a questo film, sembra mancare la convinzione, cioè in qualche modo vediamo cose già viste e anche un racconto tenuto sempre sulla superficie, mai con un momento di profondità, e questa cosa a mio modo di vedere limita moltissimo il film. La prima cosa che mi viene in mente è che se Claudio Caligari sapesse che i suoi ultimi due attori, Alessandro Borghi e Luca Marinelli, sono finiti a fare film a Hollywood e dintorni, a diventare delle star del mondo anglofono, forse un po' storcerebbe la bocca, anche se entrambi fanno un figurone. E questa forse è l'unica parte positiva di questo film, che per il resto ha esattamente i difetti che tu enunciavi. Il punto è che però si sceglie una regista che non ha le spalle abbastanza grosse per tenerlo su, è una regista che ha fatto commedie sentimentali, che ha diretto qualche puntata di serie TV di secondo piano, e la sceneggiatura che appunto annulla quando non riduce tutto ciò che c'era di approfondimento psicologico, di complessità, sia nella trama sia in particolare nel racconto dei personaggi, che a noi ci vengono offerti in una graniticità che nulla ha a che vedere con il fumetto vero e proprio. E alla fine ho l'impressione che questo potrebbe essere un'ottima prima puntata, un pilot magari un po' troppo lungo, per poi vedere questi personaggi crescere. E il punto è però che è un film e questi personaggi non crescono mai. E la nostra Sonia Serafini ha intervistato a Londra Charlize Theron, protagonista di Old Guard. Ascoltiamo l'intervista. Charlize, nel film il tuo personaggio Andy è una donna forte, combattiva, a capo di un gruppo di uomini. Quanto c'è bisogno di personaggi come lei nel cinema? È interessante perché osservando la storia, le donne erano delle leader, delle grandi leader. È una cosa che abbiamo perso negli ultimi secoli. Credo dia un riscontro naturale su quanti anni ha Andy, il mio personaggio. A parte questo, abbiamo davvero bisogno di più donne del genere. Ne parliamo di continuo, dobbiamo arrivare ad un punto in cui non dovremmo più preoccuparcene né parlarne, perché non rispecchia la verità. Qualche volta le sceneggiature raccontano della sofferenza per arrivare a guardare allo specchio il resto del mondo. Perché quando si parla di queste situazioni, ovviamente dicono che non è vero. Certo, si trovano sempre situazioni problematiche nella nostra società, ma il fatto è che le donne sono grandi leader. Per questo non dobbiamo pensarci troppo quando raccontiamo storie. We didn't really think about it too much while we were telling the story. Nel film reciti accanto a un grande attore italiano, Luca Marinelli. Ti ha insegnato nulla della nostra lingua? Ho vissuto in Italia per un paio di anni quando ero giovane. Parlavo davvero bene italiano quando vivevo lì. Luca Marinelli mi ha ricordato frasi e parole come se avesse rispolverato qualcosa. E questo era Old Guard su Netflix. Noi siamo arrivati al primo momento con il nostro gioco, sul film misterioso, come sempre una traccia di un film da indovinare per provare a vincerlo. In edizione Blu-ray, ascoltiamo. Come vi chiamate? Mi chiamo Rosalia Solimene, mia madre Sofia Trombetta, faceva la vannare. Mio padre Procopio Solimene Maniscalc, signor. Signor. Presentatevi domani mattina. Grazie eccellenza. C'è della bontà nella nostra redazione, della bontà a bizzeffe. Sarà il post pandemia, ma insomma qui ci mancava solo che vi dessimo anche nome, cognome, indirizzo. Comunque scrivetecelo voi il vostro nome, cognome, indirizzo con il titolo del film per vincere un Blu-ray dell'edizione restaurata di questo film, di cui più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Trasferiamoci in Francia con un film che torna su un tema molto caro al cinema francese d'autore e di impegno civile, quello della scuola. Si intitola L'anno che verrà. Ne approfitto per dare il benvenuto alla nostra nuova DS, la signorina Samia Zibra. Salva, che bella, prima che sia troppo tardi. Non si corre nei corridoi! Cammino veloce! Siete già in terza, è un anno davvero importante. Professore, voi... infatti, con questo suo nuovo ventaglio adesso sì che è un vero papino. Beh, sul papino stiamo calmi, bello, perché ti ricordo che hai 19 anni. Hai ripetuto 7 volte e poi c'è tuo figlio che è nella classe qua accanto. Siamo nel quartiere di Saint-Denis, nei pressi di Parigi, nel circondario di Parigi, una scuola media dove si concentrano classi con allievi che insomma hanno problemi, problematiche, soprattutto su alcuni temi come le lingue. Arriva la giovane, l'immancabile giovane preside che viene nominata, vicepreside anzi, perché viene nominata per occuparsi di questi ragazzi, e chiaramente ci sarà la classica situazione nella quale ognuno impara dall'altro. Gli studenti capiscono che bisogna esprimersi nel modo migliore, ma esprimere anche nel modo migliore i propri sentimenti e i propri talenti, e così anche la vicepreside, nonostante gli ostacoli, cercherà di trovare la migliore condizione per loro, metterli a proprio agio senza giustificare ovviamente i loro comportamenti. Boris, dicevo, l'anno che verrà, film francese che arriva nelle sale, quindi questa è una proposta per la sala cinematografica con la regia di Idir Mehdi, ci riporta dentro un filone proprio del cinema francese di impegno civile molto frequentato, che è quello della scuola. Pensate ai film di Laurent Cantet, tanto per dirne una, film che hanno anche vinto molto poi nei grandi festival, eccetera. Ecco, come si colloca questo rispetto a questo mondo del cinema francese, che vede nella scuola un elemento di racconto per raccontare la società francese? Beh, è interessante perché il cinema scolastico è passato da essere un genere quasi esclusivamente statunitense, dal Seme della violenza fino a Dangerous Minds, a un genere molto europeo, in particolare francese. Pensiamo alla Classe, appunto, che vinse la Palma d'Oro, fino all'anno scorso Il professore cambia scuola. E non è un caso, perché in entrambi i casi raccontava di paesi in grande difficoltà in cui la scuola poteva divenire modello o lo specchio di una società in cui integrazione, in cui istruzione erano la medicina, ma anche il virus da cui potevano partire tutti i problemi del proprio mondo. Questo filone, secondo me, in Francia ha trovato tantissima fertilità narrativa e creativa, anche perché probabilmente con tutti i problemi nelle banlieue, con tutti i problemi di integrazione degli ultimi 20 anni, vediamo I Miserabili, che insomma di scuola se ne vede poca, ma rende bene l'idea, hanno capito i transalpini che bisognava in qualche modo raccontare la verità. E infatti quasi tutti questi film diventano dei docudramma, diventano dei documentari, volenti o nolenti, cui 3 dei 5 protagonisti sono realmente personaggi che hanno vissuto quella situazione. Quello che mi ha affascinato di questo film, rispetto agli altri modelli di cui parlavamo, è che non c'è un grande obiettivo finale, non c'è la ricerca della redenzione finale, cioè si vuole raccontare davvero la quotidianità scolastica, e questo diventa un pretesto anche per guardare più a 360 gradi l'oggetto scuola, mentre in tutti gli altri film francesi che abbiamo citato e anche quelli che non abbiamo citato, la tendenza era concentrarsi sugli alunni, concentrarsi sulle dinamiche relazionali, politiche, sociali che c'erano tra gli alunni. Qui ci si concentra, come in un film sloveno molto bello, Class Enemy, anche sulla figura degli insegnanti, ma senza drammatizzarli, anche loro guardati nella loro quotidianità. Noi guardiamo gli alunni e guardiamo gli insegnanti, guardiamo la difficoltà di approdare a un modello di istruzione generalista per tante minoranze diverse, per tante situazioni diverse sociali, ma vediamo anche quanto può essere difficile il ruolo dell'insegnante, quanto il concetto di fare la cosa giusta, di prendere delle decisioni giuste, di andare in una direzione che si considera valida, è complicata nella quotidianità. Questa assenza di un fine e di una fine dà, secondo me, all'opera uno spessore che raramente abbiamo trovato in altre opere del genere, perché quelle opere, dopo un ottimo inizio, tendevano a correre verso un finale che poteva essere o di redenzione o drammatico. Qui invece abbiamo qualcosa in meno a livello di storytelling, a livello narrativo, c'è forse qualche emozione in meno, ma c'è una profondità in più dell'analisi e della struttura sia scolastica che cinematografica. L'anno che verrà quindi nelle sale cinematografiche italiane, lo trovate, sale cinematografiche che stanno faticosamente, come dire, tornando verso una normalità che però sembra ancora lontana, molto, molto meglio stanno facendo le arene all'aperto, che evidentemente riescono a rispondere meglio ai timori del pubblico rispetto al cinema. Boris, rimani con noi perché fra poco torniamo insieme per parlare di quello che per me è il film della settimana, un film solido, classico ma molto convincente, si intitola Greyhound, un film bellico con la presenza di Tom Hanks. Fra poco. Attraversiamo confini ogni giorno, piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Attimi che diventano storie indelebili nella nostra memoria. Linee d'ombra racconta proprio quegli attimi, piccoli o grandi episodi della nostra vita che ci hanno trasformato nelle persone che siamo, perché le nostre storie raccontano di noi molto più di qualsiasi presentazione. Raccontare, condividere stralci delle nostre vite è il miglior modo per affermare: ecco, io sono questo. Le linee d'ombra che abbiamo attraversato ci hanno mostrato spazi, luoghi e mondi che nemmeno noi sapevamo di poter abitare. Invia un episodio della tua vita che ha a che fare con un confine e il passaggio di quel confine a lineedombra@radio24.it. Una, massimo due pagine. E noi, ogni giorno, ci prendiamo lo spazio e il tempo per raccontarla. Linee d'ombra di Matteo Caccia, da lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. La rosa purpurea. Congratulations on your first command at last. I will always be looking for you, Evie. Even if I'm 1,000 miles away. Air escort to Greyhound. You will now be out of range of air cover for the next 5 days. How many crossings does this make? This was my first. Le atmosfere di Greyhound, il film con Tom Hanks, disponibile su Apple TV Plus in abbonamento, un film bellico che va a scovare un episodio, una situazione, una circostanza della Seconda Guerra Mondiale poco frequentata dal cinema, quella delle navi mercantili che durante il blocco navale tedesco all'inizio degli anni 40, con l'America appena entrata in guerra, provavano a portare materiali su pellettili agli alleati dall'altra parte dell'Atlantico, ma dovevano appunto scontrarsi con la muraglia del blocco navale tedesco. C'era una zona, quella che non veniva più controllata dagli aerei da ricognizione americani fino a quando non si arrivava dall'altra parte, che veniva chiamata la Pit Black, e in quella zona poteva succedere di tutto. Poteva succedere che queste navi mercantili americane fossero attaccate dagli U-boat, dai sommergibili tedeschi. Erano scortate a loro volta da delle piccole navi da guerra, navi della Marina Militare, che cercavano di tenerle insieme e di aprirgli la strada, cercando di prevenire con i sonar, con i radar, tutto quello che poteva aggirarsi intorno nei mari circostanti. È un film che appunto, come dicevo, ha come protagonista assoluto Tom Hanks, un Tom Hanks molto convincente nei panni del capitano Ernest Krause della Marina Militare Americana. È un film che ha una capacità di tensione veramente notevole. Quando lo vedrete, se lo vedrete su Apple TV, i primi 25 minuti sono un'unica scena, sono la scena del primo attacco degli U-boat a queste navi. Vi assicuro che non mollate un attimo lo sguardo, perché è un film scritto molto bene, con una capacità di creare tensione degna del cinema classico bellico americano. Lo dirige Aaron Schneider, che aveva una precedente regia di un film televisivo nel 2009. È soprattutto un direttore della fotografia e si vede, anche se c'è molto uso del computer. Però Boris Sollazzo, mi sembra che questo film con Tom Hanks e anche con Elizabeth Shue, che è la sua spasimante, diciamo così, nel film, è un film molto convincente e degno, come dicevo, di un cinema bellico, che è quello che ci ha lasciato i più bei capolavori di questo genere. D'accordissimo, erano quasi 10 anni che Tom Hanks non scriveva un film, ed era un film molto diverso da questo, che era L'amore all'improvviso, e si sente tutta la maturità di Tom Hanks, anche tutto tutta l'esperienza che lui ha fatto in film più o meno bellici, lui lo ha scritto stando attento a ogni più piccolo dettaglio. Questo è un film che sarà un capolavoro per tutti coloro che sono appassionati di strategia militare, di tattica. Qui non vi aspettate il film militare all'americana pieno di patriottismo o di retorica, voi sarete chiusi dentro un luogo preciso che è la cabina di comando, e ci saranno parole, ci saranno suoni, c'è un cattivo, un villain che non a caso si chiama Grey Wolf, che parla pochissimo ma che alimenta la tensione con fini giochi psicologici, anche forse un po' troppo arroganti, e che poi gli si ritorceranno contro. E c'è appunto un protagonista che si è scritto un personaggio perfetto per le sue doti attoriali, e per essere sicuro che nessuno lo rovinasse si prende un direttore della fotografia che fa una regia totalmente tutelare e accessoria, nel senso più nobile del termine. C'era già tutto scritto in sceneggiatura, e quindi giustamente bisognava prendere qualcuno che sapesse come muovere una macchina da presa ma che non facesse danni a livello narrativo. La tensione è costante, a un certo punto voi sarete fisicamente stanchi per la tensione che avete sentito addosso e che non cala neanche un attimo. A questo punto io direi che Tom Hanks può anche cominciare a dirigerseli, perché stiamo parlando davvero di un piccolo capolavoro di genere, e secondo me anche di un film che continueremo ad apprezzare anno dopo anno che sarà passato e che sarà uscito. In questo senso voglio fare una piccola postilla: oltre al valore del film, secondo me possiamo, dopo tanti mesi passati a vedere film streaming, fare anche una piccola analisi sulle piattaforme streaming, perché se Netflix ha dimostrato la corda con un'offerta standardizzata e più o meno mediocre quasi sempre, se Amazon Prime si è dimostrata discontinua e Disney Plus ancora con una library non così piena, Apple TV Plus ha vinto la sfida di questo lockdown. I film che ha proposto sono molto variegati, sono molto interessanti e hanno anche una capacità di diventare da nicchia a universali, e quindi devo dire che se bisogna fare un parziale si può dire che in pole position in questo momento c'è Apple TV Plus. Concordo in pieno, Boris, assolutamente. Sono pochi, perché ne fanno pochi, ne mettono uno tipo al mese, due al mese, però sono sempre delle piccole perle. E poi mi viene a dire un'ultima considerazione, Boris, che bello sarebbe vedere questo film, questo Greyhound, sul grande schermo, perché è un film veramente da grande schermo, da grande cinema. Aspettiamo, chissà, un domani magari ci riusciremo. Grazie Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, dopo il film con Tom Hanks, giochiamo di nuovo insieme con la seconda traccia del film poco misterioso di oggi. Eh sì, la poveretta è moribonda. Dummi, io sto qua. A poveretta sta qua, vivente! A maronna, ma fatta la grazia! Siamo marito e moglie! Titolo del film, il vostro indirizzo, mi raccomando, mettetelo, perché agevola e velocizza le operazioni di spedizione del nostro Blu-ray alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Fra poco svegliamo tutto, il titolo del film. Adesso dedichiamoci a un musical, passiamo su Disney Plus. È stato uno dei più grandi successi della storia del musical di tutti i tempi, un film, un musical teatrale che ha vinto il Pulitzer, è capitato pochissime volte nella storia. Si intitola Hamilton. Ladies and gentlemen, welcome to the show. $10, founding father without a father, got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter, daughter to your union, and the hope that you davvero belle subito, lo sentite, le atmosfere di Hamilton, che mette soprattutto il genere rap e hip hop a servizio di una storia ambientata nel 1776, nel momento dell'indipendenza americana, proprio sulla persona di questo Hamilton, che è stato uno dei padri della patria degli Stati Uniti. Non poteva esserci che un genio come Lin-Manuel Miranda, che se l'è scritto, se l'è interpretato, ne ha fatto le coreografie, ne ha fatto le musiche, a portarlo in scena e a vincere tutto quello che c'era da vincere, fra premi dedicati al teatro e al teatro musicale, e anche, come vi dicevo, il Pulitzer, una scavallata entusiasmante per la storia americana. È stato registrato Hamilton a Broadway, questo che vedete su Disney Plus, nel 2016. Non è un film rifatto, cito Cats, l'ultimo per esempio, che era uscito all'inizio di febbraio, poi è rimasto schiacciato dal Covid. È la ripresa dello spettacolo di Broadway, ma la ripresa con un criterio cinematografico, con una profondità, tra l'altro 3 giorni di riprese, quindi non si sono accontentati del buono alla prima, ma hanno cercato poi di fare davvero qualcosa di cinematografico in fase di montaggio, e questo è stato un pochino la scommessa. Adesso arriva appunto in abbonamento su Disney Plus. Per farci raccontare un po' l'importanza di questo film, la centralità di questo film e di questo musical, la centralità di questa storia, noi abbiamo contattato un amico della nostra trasmissione, Lucio Leone, esperto di musical, che più volte è stato con noi anche qua in studio quando abbiamo raccontato i musical cinematografici, e chiediamo a Lucio Leone proprio di raccontarci perché è importante vedere Hamilton su Disney Plus. La prima risposta, quella che mi viene d'istinto e credo probabilmente anche la più logica, è perché è un grande spettacolo. Lo è a teatro, lo sarà di nuovo alla riapertura delle sale a teatro, ma lo è anche in televisione e non soffre in questa trasposizione. E questo è uno dei tanti meriti di Lin-Manuel Miranda, che di Hamilton è il cuore, visto che lo ha ideato, lo ha scritto, ha composto le musiche, lo ha interpretato e si è scelto dei compagni di viaggio perfetti. Il cast, che è eccezionale, ma anche il team creativo, regia, coreografie, scene, luci, costumi, tutto è perfettamente integrato alla sua visione. Diventa facile rendersene conto guardandolo in TV. E tornando alla TV, la ripresa televisiva, che appunto è arrivata molto dopo, ha saputo integrarsi in maniera rispettosa a questo progetto che già esisteva. E le riprese, il montaggio sono ideali per fornire un altro tipo di esperienza, in questo caso di spettacolo, però altrettanto forte rispetto a quella teatrale. Guardandolo diventa evidente capire perché Hamilton è stato letteralmente ricoperto di premi. 11 Tony Award, 7 Laurence Olivier, un Grammy per la musica, e mette insieme il rap e le ballad in maniera geniale, ma anche il Pulitzer. E il Pulitzer, che è il premio più importante per la drammaturgia, non lo danno a tutti. In questo caso, giustamente, Manuel Miranda lo ha ricevuto perché ha saputo non fare l'immaginetta agiografica di un padre fondatore della nazione, e il rischio era forte, ma ha raccontato un uomo, le sue debolezze, la sua storia, attraverso le dinamiche e i punti di vista dei personaggi che sono intorno a lui e che erano presenti nella sua vita. E questo io credo che sia alla base di tutte le storie, le belle storie raccontate a teatro, raccontate al cinema o raccontate in televisione. Quindi il consiglio, se ancora non l'avete fatto, guardatelo, ne vale davvero la pena. E grazie a Lucio Leone, esperto di musical, che ci ha inquadrato un po' il fenomeno Hamilton proprio a partire da Broadway ad arrivare adesso sui piccoli schermi di Disney Plus. Linea adesso di nuovo alla viabilità, fra poco Charlie Chaplin, Werner Herzog, Neri Marco Re, tutti nel programma del Ravenna Festival. Ne parliamo con il direttore artistico Franco Masotti. Alessandro, non parti? No che non parto, sto aspettando che suoni l'allarme di casa, metterà in fuga 2 ladri. Guarda! 2 ladri! Come facevi a saperlo? Io guardo avanti, per questo ho scelto Unipolsai. Sono i numeri 1 nell'assicurazione danni e nell'innovazione, come Unibox Casa, che ti protegge da furti, incendi e allagamenti, e controlli tutto con l'app. Scegli il futuro. Unipolsai, sempre un passo avanti. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo. Fai subito un preventivo su unipolsai.it. La rosa purpurea. Insieme alla Rosa Purpurea con le sonorità della colonna di Luci della città di Charlie Chaplin, accompagnamento dal vivo. Charlie Chaplin era molto affezionato all'accompagnamento dal vivo dei suoi film, tanto che questo film, che pure era arrivato un paio d'anni dopo l'avvento del sonoro, lo volle lo stesso muto e accompagnato da un'orchestra dal vivo. È quello che succederà presto anche al Ravenna Festival. Certo che se uno pensa a nomi come Neri Marco Re, Charlie Chaplin e Werner Herzog, pensa di essere di fronte a un festival cinematografico. Invece no, siamo di fronte al Ravenna Festival, uno degli appuntamenti policulturali più importanti d'Italia e a livello internazionale ormai da tantissimi anni, che anche quest'anno con tanti sforzi è riuscito a mettere insieme un cartellone di tutto rispetto. Proprio questa sera, dicevo, alle 21 a Lugo c'è Neri Marco Re, attore cinematografico ma anche attore poliedrico, che canterà le canzoni di Fabrizio De André in uno spettacolo dal vivo che si intitola Come una specie di sorriso. Ma poi, come dicevamo, si va a degli appuntamenti alla Rocca Brancaleone di Ravenna, che è diventato per questa annata Covid, diciamo così, un po' il campo centrale del Ravenna Festival, a partire proprio dal 15 luglio con City Lights, Luci della città, con accompagnamento dal vivo, come voleva il buon Charlie Chaplin. E vi segnalo anche il 20 luglio un altro appuntamento a Rocca Brancaleone, Requiem for a Dying Planet, cineconcerto di Werner Herzog ed Ernest Reisegger. Per parlare di questi appuntamenti è con noi Franco Masotti, che è il direttore artistico del Ravenna Festival. Ciao Franco, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Ciao a tutti. Allora, parliamo di questo City Lights, di questo Luci della città con l'accompagnamento dal vivo, proprio come voleva Charlie Chaplin. Con quale taglio, diciamo, avete organizzato questo spettacolo nella Rocca Brancaleone? Chi sarà a suonare le musiche originali, composte peraltro da Charlie Chaplin? Beh, abbiamo scelto uno specialista a livello mondiale, Timothy Brock, che ormai si è specializzato nella ricostruzione, o come dice lui, nel restauro proprio anche filologico delle partiture per il cinema, e poi in collaborazione con la Cineteca di Bologna, quindi è una garanzia assoluta di qualità, e una giovane orchestra, l'Orchestra Corelli, un'orchestra sinfonica con 70 elementi, diciamo che ci sono tutti i requisiti per una proposta importante e credo molto coinvolgente, perché poi mette assieme sia il pubblico degli amanti della musica che i cinefili, e quindi in una bella accoppiata, in un luogo di cinema, perché la Rocca è un luogo dove normalmente d'estate si proiettano pellicole cinematografiche, certo, e anche concerti. Ci sarà anche, tutti conoscono la storia del film, sarà anche in collaborazione con l'Unione Ciechi Italiani, per cui i non vedenti potranno vederlo assistere sia nello streaming sia anche dal vivo con un commento. Questa è una cosa che troviamo molto bella. Molto bella. Importante. Ecco, dicevamo, il 20 luglio, sempre a Rocca Brancaleone, Werner Herzog col suo Requiem for a Dying Planet, uno che ha fatto Fitzcarraldo, non poté, che sappiamo ha sempre avuto una passione per la foresta amazzonica come luogo, non poteva che arrivare poi a questo cineconcerto. Raccontaci un po' questo spettacolo. Questo è uno spettacolo che nasce da una strettissima collaborazione tra un grande musicista olandese, grandissimo violoncellista, improvvisatore, ma anche bravissimo compositore per il cinema, che si chiama Ernst Reisegger. Tra lui e Herzog è nata una collaborazione molto stretta, tant'è che quasi tutti gli ultimi film documentari di Herzog, che sono sempre dei film, sono stati realizzati da lui. E quindi sono state messe assieme i film e le colonne sonore di alcune delle ultime sue produzioni, come The Wild Blue Yonder, The White Diamond, e anche l'ultimo film su Bruce Chatwin, e verranno eseguiti in una sorta di montaggio cinematografico e musicale dal vivo, un abbinamento piuttosto singolare per alcune delle ultime pellicole di Herzog, che ha sempre avuto un rapporto molto stretto con la musica. Ricordiamo appunto le collaborazioni con i Popol Vuh, che hanno fatto un po' la storia, ma proprio delle colonne sonore per il cinema. E allora ricordiamo ancora l'appuntamento Requiem for a Dying Planet di Werner Herzog, Rocca Brancaleone, Ravenna, il 20 luglio alle 21:30. Grazie Franco Masotti e insomma complimenti per questo programma. Grazie mille. E Franco Masotti ci ha un po' illustrato la parte cinematografica del Ravenna Festival. Noi andiamo avanti perché siamo arrivati al momento in cui parliamo del cinema da vedere in casa. Ne abbiamo visto tanto in casa in questi giorni, continuiamo a vedere, ma questo è quello, diciamo, che parte dal nostro game della settimana scorsa. Entro un'ora partirà una spedizione di soccorso. Il vostro incarico è fornire un supporto aereo alla spedizione. Nella zona ci sono dei MiG e la situazione è molto tesa, e se sarà necessario dovrete rispondere al fuoco. E allora, si trattava di Top Gun, versione 4K in altissima definizione. Lo hanno indovinato per primi e riceveranno a casa il Blu-ray Luca Palazzini di Cerveteri, provincia di Roma, e Germano Bissoli di Lugagnano di Sona, provincia di Verona. Sono i nostri due ascoltatori che per primi hanno indovinato il film misterioso della settimana scorsa, che ci facciamo raccontare in questa edizione 4K da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Mentre aspettiamo Maverick, il sequel del film di uno dei cult per antonomasia degli anni 80, di cui certo non sto a raccontarvi la trama perché la saprete tutti a memoria, ecco la versione in 4K di Top Gun, immancabile per ogni retromaniaco e ogni fan dell'ultimo vero divo, Tom Cruise. Il piatto è ricco, perfetto da un punto di vista tecnico, con extra veramente allettanti, interviste esclusive a Cruise e al produttore Bruckheimer e a membri del cast, l'anniversario dei 30 anni festeggiato nel 2016 di Top Gun, i contenuti speciali delle edizioni precedenti come il commento al film di produttore, regista, il fu Tony Scott e co-sceneggiatore ed esperti della Marina, e tutto questo si aggiunge il making of, video musicali e molto altro. E le segnalazioni invece nei palinsesti in chiaro della prossima settimana, cominciamo da Fuori Orario, che nella notte di domenica all'1:55 su Rai 3 manda un film con Amedeo Nazari, di Jean Delimour, che si intitolava Apparizione. Alberto, sono io, Orietta, ma qua su, sulla scala. Dobbiamo fare un'improvvisata. Segnaliamo l'apertura della notte di Fuori Orario di domenica all'1:55, ovviamente su Rai 3, con una chicca, Apparizione di Jean Delimour, una commedia sentimentale scritta tra gli altri dal non accreditato Federico Fellini, girata in guerra nel 1943, uscita nei primi mesi del 44, è un La Rosa Purpurea del Cairo ante litteram, con Amedeo Nazari nel ruolo di se stesso, come Le Notti di Cabiria d'altronde, che appare nella realtà di una giovane sposa prossima avventura, la scombina, la mette in crisi e poi la ricompone saggiamente. Un racconto morale leggiadro che è un invito al principio di realtà, una vera delizia. E questo era l'appuntamento con Apparizione a Fuori Orario su Rai 3 domenica notte. Invece lunedì alle 21:20 su Rai 3 c'è The Guild. Centrale Selandia Nord. Sono Esgar, quello dal 112. Targa Zulu Tango 55803, ZT 55803. ZT 55803, esatto? Sì. Lo comunico. Ok. Sì, allora, il suo ex, Michael Berg, la rapita. Michael Berg, perfetto. Lunedì sera alle 21:20 su Rai 3 una prima visione TV, un film molto bello, The Guilty, il colpevole, film danese con protagonista un agente di polizia che risponde al centralino di un pronto intervento a una donna in difficoltà probabilmente rapita. Tutto è girato in un unico luogo, tutto sul volto del protagonista e sul suo fuoricampo, in dialogo con una voce di cui non vediamo ovviamente la faccia e che sicuramente ha a che fare con le tante voci dentro il protagonista. È un thriller minimale a porte chiuse sul rapporto tra un mondo esterno che noi possiamo solamente supporre e che ha un che di spettrale, e un protagonista di cui si restituisce sguardo e prospettiva. Un'opera di inganni tesissima, assolutamente da recuperare. E questo era appunto Il colpevole, The Guilt, su Rai 3 alle 21:20 di lunedì. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. E allora siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, e come sempre l'epilogo affidato allo svelamento del nostro film misterioso di oggi, che ripeto è stato poco misterioso sin dall'inizio, ma abbiamo giocato con Matrimonio all'italiana, edizione Blu-ray, e chiaramente questo capolavoro arriverà a due nostri ascoltatori di cui daremo i nomi la prossima settimana. Noi vi aspettiamo sabato prossimo alle 18 qui con tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.